vecchi ricordi. È una vita passata. Beh, 1, 2. Ho fatto della preghiera una ragione di vita. Ho superato molti ostacoli incrociando le dita. Ho visto più volte in faccia la morte. Mi son sentito perso nel buio più avvolgente. Ma il cielo mi ha dato una possibilità, un'uscita di sicurezza dall'oscurità. Tante volte ho pensato di dover cambiare vita, ma alla fine ti ci abitui sempre alla fatica. Come on. Sono ricordi di una vita passata, passata da tempo e ormai finita. La vecchia ferita ti ha cambiato la vita, ma la partita non è ancora finita. Sono ricordi di una vita passata, passata da tempo e ormai finita. La vecchia ferita ti ha cambiato la vita, ma la partita non è ancora finita. Check. Vecchi ricordi che ritornano in mente, meandri del passato. Sì. Check. Ferito da questo mondo bugiardo, arduo il cammino per arrivare al traguardo. Ricordi ritornano nella mia mente, non riuscivo nemmeno a stare in mezzo alla gente. Dignità è tutto quello che cerco, libertà di parola. È per questo che rappo, è una vita dura di stenti e di privazioni. Una mano al portafogli, l'altra nei pantaloni. Come on. Sono ricordi di una vita passata, passata da tempo e ormai finita. La vecchia ferita ti ha cambiato la vita, ma la partita non è ancora finita. Sono ricordi di una vita passata, passata da tempo e ormai finita. La vecchia ferita ti ha cambiato la vita, ma la partita non è ancora finita. Check.